Peninna, una donna schiava della gelosia. Peninna visse in un periodo di declino del popolo di Israele, il quale era arrivato al punto più oscuro della sua storia. Dopo che Mosè e Giosuè avevano governato la nazione con tanta abilità e onestà, era arrivato il tempo dei giudici, cioè un periodo nel quale il popolo era guidato da uomini con una vera fede nel Dio di Israele. Dio stesso avrebbe voluto governare in modo diretto tramite l'angelo di Giavui, ma il popolo aveva poco interesse per Dio e continuamente si volgeva verso gli idoli. Così il governo teocratico non fu accettato e il risultato del declino fu l'anarchia, cioè ognuno faceva quello che gli sembrava bene. Le leggi del governo teocratico non venivano più ubbidite e ogni membro della società israelita faceva ciò che era giusto ai suoi occhi. Ma come non è possibile comportarsi male e avere una buona morale così? Il clima spirituale del popolo di Israele non era migliore di quello politico. Per questo l'Eterno era fortemente indignato. La sua ira si riversava prima di tutto sull'autorità spirituale più importante in carica durante quel periodo, il sommo sacerdote Eli, perché tollerava la condotta malvagia dei suoi figli Ofni e Fineas. Eli vedeva che i suoi figli mangiavano del meglio dei sacrifici offerti a Dio dal popolo e sapeva che degradavano il culto nel tabernacolo con una cattiva condotta sessuale. Eppure non li rimproverava. Ma il giudizio di Dio era vicino. Il casato di Eli aveva perso la sua influenza e la nazione stava per essere assediata dai Filistei, i loro acerrimi e remoti nemici. Ma, ancora peggio di questo, era il fatto che l'Eterno non parlava quasi più in quei giorni. C'era poca comunicazione fra l'Eterno e il popolo. L'angelo di Yahweh si era messo da parte. Peninna visse proprio in questo periodo. Elcana, suo marito, aveva due mogli. Originariamente Dio intendeva che l'uomo avesse una donna sola e ogni donna un marito solo, ma poiché il popolo si era allontanato dal suo ideale anche nel matrimonio, Dio non condannò la poligamia, soprattutto per proteggere i primogeniti. Come Elcana aveva sperimentato, chiunque si allontana dai piani originari di Dio attira delle difficoltà su di sé e sugli altri. E per questo l'atmosfera in casa sua era intollerabile. Il fatto che Peninna avesse dei figli mentre l'altra moglie di nome Anna non ne aveva alimentava il conflitto. Peninna guardava Anna con disprezzo, la umiliava, e questo solo perché lei non aveva figli. Oggi non sarebbe ragione di umiliazione per una donna, ma per una sposa ebrea essere senza figli era uno dei più grandi avvilimenti. Almeno l'osservanza religiosa aveva un posto giusto nella famiglia di Elcana. Ma anche se ogni membro pagava i suoi tributi religiosi, Dio non era una realtà quotidiana nell'esistenza di Peninna. Era scontenta, non era grata a Dio per i suoi bambini, per tutte le buone cose che possedeva. Era paralizzata da una forma di ingratitudine. Forse non aveva pensato che Dio desiderasse da lei anche altri tributi, come per esempio l'amore per gli altri. Essa aveva tutto quello che una donna giudea poteva sognare. Aveva molti bambini e questa era una prova del favore di Dio. Essa avrebbe continuato a vivere nel futuro tramite la vita dei suoi figli, dopo la morte. L'altra moglie di Elcana, Anna, soffriva grandemente perché era sterile, ma non era stata contaminata dallo spirito dei tempi in cui viveva. Non si lamentava di ciò che non aveva. Soffriva, sì e molto, per non aver figli, ma metteva la sua sofferenza davanti a Dio. Poiché Dio era il centro dei suoi pensieri, le sue azioni erano ispirate dalla fede. Anna era una donna attraente, era molto mite, e Elcana vedeva chiaramente la differenza tra le due mogli. Non poteva fare a meno di preferire Anna a Peninna, anche se non l'aveva soddisfatto con una progenie. Ma Peninna non era ispirato dall'esempio di Anna. Infatti il suo comportamento era proprio l'opposto. Peninna si vantava davanti ad Anna per aver dato alla luce dei figli e il fatto che Dio era stato colui che l'aveva reso possibile non le passava per la mente. Peninna era tremendamente gelosa di Anna, forse anche perché vedeva che il marito, nonostante la sterilità, preferiva a lei la sua rivale. Per questo la provocava continuamente, specialmente in occasione delle feste giudaiche. Quei giorni causavano grande dolore ad Anna, perché c'erano le celebrazioni e le feste della famiglia, durante le quali la nazione si recava allegramente alla casa di Dio. In quei giorni gioiosi di festa Peninna mostrava in modo particolare il suo rancore verso Anna, molestandola continuamente per farla irritare. Peninna aveva permesso all'amarezza di mettere radice e crescere nel suo cuore. Siccome non aveva vigilato sul suo cuore, sui suoi sentimenti negativi, era avvelenata dall'invidia, uno dei peccati più gravi per un rapporto umano. L'invidia nasce prima di tutto dall'insoddisfazione, poi dalla contesa, dall'egoismo, dalla mancanza di umiltà, dal guardare solo i propri interessi e non quelli degli altri. La Bibbia ce ne mette spesso in guardia, perché non è una di quelle piccole debolezze caratteriali che si osservano con una certa benevolenza e alle quali Dio permette di vivere con l'uomo. Egli la mette nella lista dei peccati, che la società stessa ritiene molto gravi, come l'adulterio, l'idolatria, la stregoneria. Per comprendere la gravità dell'invidia è sufficiente ricordare che il Figlio di Dio, Gesù Cristo, è stato consegnato dai giudei nelle mani di Pilato, per invidia. Matteo 27,18, e che gli stessi apostoli furono gettati nella prigione dal sommo sacerdote e da tutti coloro che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, per invidia. E che dire di Giuseppe, figlio di Giacobbe, il quale fu venduto dai fratelli per invidia? E Paolo, il quale veniva ostacolato nella predicazione del Vangelo sempre per invidia? Non vi sono poi parole quando leggiamo nella Bibbia che alcuni predicavano il Vangelo per invidia e che, sempre per invidia, le chiese di Cristo si dividono. La gelosia è il furore dell'uomo, scrive il saggio Salomone. E, come il fuoco, se non si spegne rapidamente non può più essere fermato se non si interviene perché si estende ad altre parti del corpo. Questo è specialmente vero per la lingua. Peninna è un esempio di come una persona possa usare la lingua sotto l'impulso dell'invidia e della gelosia. La lingua è uno dei membri più piccoli del corpo, ma può causare una grande fiamma che distrugge vite intere. Non è strano che in questo caso la Bibbia dica che ad essa è stato dato fuoco dall'inferno. La gelosia e l'invidia divorano una persona, perché questi atteggiamenti vengono dal carattere stesso di Satana. Infatti, per questi peccati Satana distrusse se stesso. Egli invidiò Dio nel suo orgoglio. Egli voleva essere come lui e questo causò il suo eterno allontanamento dalla felicità. Perciò Satana è contento ogni volta che un essere umano cade nella stessa trappola da lui abilmente preparata. Egli, difficile capirlo e soprattutto accettarlo perché nessun essere umano sano di mente è felice per la disgrazia altrui. Ma, poiché la ribellione di Satana ha prodotto in lui un capovolgimento di valori, per lui il bene si è trasformato in male e il male si è trasformato in bene, o in qualcosa di non facilmente distinguibile per quello che è in realtà. Spesso Satana non fa fatica a persuadere l'uomo ad essere geloso o invidioso e per questo ha un grande successo, perché le persone sono invidiose e gelose per una inclinazione. Ed è veramente assurdo e una ironia che l'uomo possa tramite lo stesso membro, cioè la lingua, parlare a Dio, ringraziarlo, lodarlo, benedirlo e, poi, possa sempre con la stessa lingua servire Satana. Come per Peninna, la gelosia e l'invidia cominciano nella mente e se non sono fermate in tempo, rovinano la vita di qualsiasi persona. Danneggiano le relazioni tra le persone, anche quelle migliori, anche quelle più intime come il matrimonio. Peninna aveva lo stesso marito di Anna e anziché essere felice per suo marito che aveva una donna che amava, ne era gelosa. Come se un figlio fosse geloso. Perché suo fratello è amato dai genitori. La gelosia è anche molto subdola. Procura un danno molto più grande nella persona che la cova anziché nella persona alla quale è rivolta. È come un boomerang che ritorna sulla persona che lo lancia. Peninna fece proprio questa esperienza. In seguito, Anna ebbe dei figli, tra i quali Samuele, un grande profeta in Israele, mentre i figli di Peninna andarono a mendicare dal figlio di Anna. Purtroppo, Peninna non riuscì a risolvere il proprio problema, anche se la soluzione era a portata di mano. Tutto quello che avrebbe dovuto fare era osservare e seguire l'esempio della fede, della pazienza e dell'amore di Anna. Sta scritto che Dio, spesse volte, mette vicino all'empio un uomo giusto, perché il primo possa rendersi conto del suo comportamento sbagliato. Peninna ha avuto proprio questa possibilità. Non sappiamo nulla di sicuro su come andarono le cose per Peninna, ma possiamo dire con certezza che la sua gelosia e la sua invidia l'hanno uccisa. Qualcuno ha fatto notare che l'autorità medica ha stabilito che la causa più profonda di molte malattie è di origine emotiva. Un odio profondo e prolungato può danneggiare il cervello, può causare dei disordini al cuore, provocare pressione alta e indigestioni acute. Tutto questo è sufficiente per uccidere una persona. Non possiamo dire che Peninna sia morta fisicamente in questo modo, ma è certo che, se ha continuato a vivere covando gelosia e invidia, è vissuta da morta, senza nessuna relazione di tenerezza, senza amore, senza gratitudine. E questa è la peggiore delle morti che una persona possa gustare. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti,